A ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. Sul ciglio di via Ippolito a Ferrara ogni tanto qualcuno adagia ancora fiori e tutti qui lasciano pensieri. Pensieri per quel ragazzo riccioluto che qui finì di vivere in una notte del 2005. Qui in questa strada secondaria della prima periferia sud di una città elegante e tranquilla. Via Ippolito oggi è una ferita tuttora aperta, non solo per Ferrara, perché qui, 6 anni fa, morì Federico Aldrovandi dopo aver incontrato dei poliziotti sulla sua strada. E allora da qui partiamo per questa puntata di A ciascuno il suo, dentro la mala polizia. Alcuni sono casi molto noti, altri confinati nelle pagine di cronaca locale. Alcuni sono casi dagli esiti giudiziari già accertati e definiti, altri tuttora aperti. Alcune storie sono diventate emblema di una battaglia, altre rimaste cicatrici di una famiglia. Tutte però sono storie di morti non chiarite e di buoni che a volte diventano cattivi. Federico Aldrovandi aveva 18 anni ed è morto in una calda notte di settembre a Ferrara, al ritorno da una serata di musica e droghe, quando in un parco si è scontrato con 4 agenti di polizia. Per droga era stato arrestato Stefano Cucchi, ma quando aveva smesso di respirare, soprattutto i segni dei lividi erano evidenti sul suo corpo di 37 kg. Di nuovo caso Cucchi ha parlato il 9 novembre 2011 il garante dei diritti dei detenuti del Lazio, dopo la morte a Viterbo di Christian De Cupis. Aveva 36 anni ed era stato arrestato per oltraggio a pubblico ufficiale. E poi ci sono ancora Giuseppe Uva, Riccardo Rasman, Giuseppe Turrisi e ancora Stefano Brunetti, Aziz Amiri e altri ancora. Nomi che rimandano a storie diverse e con responsabilità differenti. Ma tutte storie finite in modo drammatico, con un telo bianco steso su di un corpo e un'ombra allungata sulla divisa azzurra. C'è la storia del ragazzo di colore pestato a Parma e quello del barbone morto nella stazione di Milano. Dal 2001 ad oggi, cioè negli ultimi 10 anni, secondo i dati raccolti nel libro inchiesta Mala Polizia, sarebbero stati una quarantina i casi, quantomeno controversi, sugli abusi commessi dalle forze dell'ordine. Alcuni finiti con un morto, altri con processi per lesioni, altri con buchi neri ancora da accertare. Tante domande aspettano tuttora risposte sulla morte di Christian De Cupis. Arrestato alla stazione Termini di Roma il 9 novembre 2011, è morto 2 giorni dopo nel reparto di medicina protetta dell'ospedale Belcolle di Viterbo. Non era entrato in carcere né registrato con alcuna matricola, secondo le prime ricostruzioni che il PM Stefano Darma sta cercando di allineare e capire. L'inchiesta per omicidio colposo è stata aperta dopo la denuncia della garante dei diritti del detenuto dell'Aquila, Angelo Marroni. Io ho avuto notizia da un nostro volontario che sta lì all'ospedale a Santo Spirito di questo caso, di questo ragazzo portato alla polizia ferroviaria, che è la polizia che sta lì alla stazione Termini e che era in condizioni precarie, portato al pronto soccorso. Questo ragazzo in pratica poi è stato portato da lì al Belcolle, alla struttura protetta carcere di Belcolle a Viterbo. Questo ragazzo dopo che è morto io ho denunciato questo fatto, che lui era stato percosso sicuramente, perché mi ha anche detto che mi ha pestato la polizia, lui l'ha detto quando era in ospedale. Quindi ho denunciato questo caso dicendo qui siamo, non è uguale, perché Cucchi era già nelle mani dell'amministrazione penitenziaria, questo invece non è mai entrato nel sistema penitenziario, anche se c'è questa anomalia per cui è stato portato a una struttura carceraria senza essere stato trasmesso all'autorità penitenziaria. Ecco, lui era stato fermato per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. E quindi, essendo un arrestato, non poteva entrare in una struttura penitenziaria senza l'amministrazione penitenziaria ne sapesse niente. L'autopsia sarà fatta senza il perito di parte, perché non è arrivato in tempo. Il magistrato con il suo perito ha fatto la sua relazione finale e ha chiuso il tutto con l'accusa di omicidio colposo preterintenzionale. All'origine dell'arresto di De Cupis ci sarebbe stato una sua aggressione agli agenti. Io non ho le prove di tutto ciò, ho soltanto un testimone lì che stava nel momento in cui lo ammanettavano, lo portavano via e lui scacciava per terra. Ma questo non è l'unico caso, ce ne sono stati anche altri. Per alcune storie che arrivano di più alla ribalta, soprattutto per l'impegno di, dei familiari, altre restano nell'ombra. Una marea resta nell'ombra, tra l'altro poco ce ne sarà pure, c'è anche qualche processo che si sta avviando. A quale fa riferimento? No, un altro episodio che accadde ad Anzio con la Polizia di Stato. Quello Brunetti? Sì, questo fu picchiato dalla Polizia di Stato, poi portato a Velletri, in calcio portato all'ospedale e lì morì e l'hanno trovato a spappolamento della mursa. Sono alcuni casi, non molti, ma ce ne sono insomma alcuni che rimane la pena di ricordare, perché qui noi non possiamo accettare l'idea o far passare l'idea che se si firma la polizia si deve mettere paura. Non si può avere paura delle forze dell'ordine, dice dunque il garante dei diritti dei detenuti. E questa è una verità sacrosanta, come l'altra però, che è sempre bene ricordare, come fa lo stesso Marroni, per dei casi limite di mala polizia che fanno clamore. Ogni giorno decine e decine di poliziotti, di forze dell'ordine in generale, affrontano pericoli e le più disparate situazioni correttamente. Vengono chiamate mele marce in genere, quelle divise macchiate di reati, colpevoli di aggressioni o ree di comportamenti estremi, ma anche se si tratta di percentuali minime, proprio considerando la totalità degli agenti che agiscono in nome e secondo la legge, è giusto fare luce su quelle specifiche zone d'ombra, oltre che ovviamente nel nome delle vittime, zone d'ombra scandagliate sempre con grande fatica, come il caso Aldrovandi insegna. Mi sono resa conto che quella che pensavo fosse la giustizia dovuta a tutti i cittadini comuni, in realtà è costata a noi come famiglia una grandissima sofferenza. Soprattutto abbiamo cercato di urlare la nostra richiesta di giustizia, niente di più, però abbiamo dovuto lottare per avere semplicemente un processo. L'ha combattuta nell'aula dei tribunali la sua battaglia, Patrizia Moretti, madre di Federico Aldrovandi, e innanzitutto l'ha combattuta anche per riuscire a portare davanti ai giudici i quattro poliziotti della questura di Ferrara che la mattina del 25 settembre 2005 si trovarono di fronte questo ragazzo di 18 anni che tornava da una serata con amici, senza sapere che dopo quell'incontro sarebbe stata l'ultima. A luglio 2011 i quattro agenti sono stati condannati anche in appello a 3 anni e 6 mesi, dopo 2 gradi di giudizio in cui alle loro versioni ufficiali sono state affiancate perizie, testimonianze, audio di conversazioni e pure un filmato che la mamma di Federico non riuscì a vedere del tutto. Noi siamo qua, c'era sto pazzo scatenato che si è avventato contro i colleghi della polizia, non so come è successo, è morto. È morto? Non so dove sono. Sono arrivato al portafoglio. Confesso che la prima volta che l'ho vista non sono riuscita sinceramente a guardarlo dopo il primo minuto. Si vede Federico a terra, senza nessuno che lo considera, questi individui, queste persone, una decina in tutto, inclusi 4 agenti imputati che si aggirano nei paraggi, si colgono alcune telefonate, ma prima di tutto si avverte chiaramente una risata. Cioè, stavano filmando il corpo di mio figlio ucciso e ridevano. Ora gli imputati hanno presentato ricorso in Cassazione. Ancora al primo grado, invece, è il dibattimento per un altro caso divenuto ugualmente simbolo di una battaglia contro la mala polizia, la morte di Stefano Cucchi, spirato il 22 ottobre del 2009 a 31 anni, nell'ospedale Pertini di Roma e dopo 6 giorni dall'arresto per droga. Queste sono tra le ultime sue faticose parole registrate durante l'interrogatorio di garanzia. Buongiorno, sono Cucchi Stefano, nato a Roma il 1 ottobre 1978. Sì. Sì, 78, mi scusi, mi è scappellato. Bene. Si dichiara innocente, ovvero ammettere a debito? Io mi dichiaro innocente per quanto riguarda lo spaccio, mi dichiaro invece colpevole per quanto riguarda la detenzione. Per uso personale. 6 medici, 3 infermieri e 3 agenti di polizia penitenziaria, 16 persone, insomma, sono a processo per la sua morte, avvolta tuttora da una coltre di dubbi e domande, come quasi sempre succede in casi come questi, in casi cioè di mala polizia. titolo del saggio di Adriano Chiarelli per Newton Compton, che ha messo in fila episodi e inchieste di presunti abusi di potere commessi dalle forze dell'ordine. Io ho preso in considerazione la serie storica compresa da dopo la morte di Carlo Giani fino ai giorni nostri, quindi gli ultimi 10 anni, dal 2001 al 2011. Sì, esatto. E ho cercato di individuare questo filo nero. Gli elementi non chiariti sono comuni a tutte queste storie. La prima difficoltà che si incontra nella fortunata eventualità che si arrivi a un processo è proprio stabilire le responsabilità dei pubblici ufficiali che sono intervenuti. Già chiarire il loro ruolo è molto difficile. Di conseguenza, dal momento che non si capisce cosa sia successo veramente, e in questo il caso Aldrovandi è esemplare, è difficile poi costruire un processo che si avvicina alla verità. Ma se questi sono i casi più famosi, altri non giungono sulle prime pagine dei quotidiani, ma sono vissuti soprattutto nei dolori delle famiglie, come quella Turrisi o ancora quella Rasman. A ciascuno il suo. Loro dicevano che Riccardo è venuto il collasso, no? Ma io... E dopo, quando sono entrata nell'appartamento, che ho visto una pozzanghera di sangue, era sangue all'entrata, sul frigo, quindi ho capito che lo hanno colpito subito. Era uno sciavo, Riccardo Rasman, per dirla con quel termine dispregiativo con cui, come annota Adriano Chiarelli nel suo libro Ma la polizia, i triestini chiamano i transfughi italo-slavi. Era un uomo di 36 anni che abitava in un palazzone di Borgo San Sergio, alla periferia di Trieste. Riccardo Rasman aveva problemi psichici ed è morto per un comportamento ingiustificato e non previsto da alcuna norma, come scriverà il giudice nella sentenza di primo grado a carico degli agenti. 6 mesi per omicidio colposo, la condanna in primo e secondo grado, quindi non ancora definitiva, per 3 dei 4 agenti che quella sera del 27 ottobre 2006 arrivarono a casa di Ricky, come ha ricostruito la sorella Giuliana, che si è battuta contro una richiesta di archiviazione. I genitori sono andati in campagna pomeriggio, è andato su in campagna anche lui, ha detto: mamma, passo su un attimo nel monolocale, ci vediamo più tardi. Verso le 8 hanno detto che Riccardo ha buttato dei petardi e aveva ferito il timpano a una ragazza. Questa ragazza era la figlia del custode. Ci hanno detto che era ubriaco. Ha chiamato la polizia, la mamma della ragazza. No, sentivo delle voci. Sì, mia mamma è di là che vorrebbe tirar fuori tutto in un momento. Le urla di mamma Rasman in lontananza sono le note del dolore che ha squarciato questa famiglia semplice dal giorno della morte di Ricky, come lo chiamavano in casa. Prono, con le mani e piedi ammanettati e il volto tumefatto. Nelle foto della scientifica è stato immortalato così Riccardo, morto per asfissia da posizione, secondo quanto accerterà il medico legale. Deceduto per omicidio colposo, secondo quanto scriveranno i giudici, dopo che la determinazione e il materiale raccolto dalla sorella porterà il PM nel febbraio 2008 a fare marcia indietro rispetto alla richiesta di archiviare tutto. Sono stati condannati perché all'inizio volevano archiviare subito senza avvisarci niente. Io l'ho scoperto perché quel giorno sono andato in tribunale. Riccardo era salito sul letto e gridava: mi sono calmato, povero, no, non ho fatto niente, lasciatemi. Poi sono arrivati i vigili del fuoco mentre erano dentro, Ricky era sul letto. E i poliziotti gli hanno chiesto di aiutare a legare le caviglie e i vigili del fuoco gli hanno legato le caviglie con fil di ferro. In un'ora è successo tutto, Come... Riccardo, se non erro, aveva dei problemi di schizofrenia. Sì, ma lui era tranquillo, non c'era in lui né violenza. Quindi arriva la polizia chiamata da questa vicina di casa perché era stata, a suo dire, lanciato un petardo che avrebbe ferito o meno comunque. No, lei non lo menziona. Lei non lo menziona, quindi chiama la polizia perché dice... Solo dicendo che c'è Rasma che butta petardi. Che butta petardi. La polizia arriva e a quel punto... Arrivano 2 agenti, dice Riccardo di aprire la porta e Riccardo dice di no, io non apro la porta. Questo MIS cosa fa? Chiama la centrale, chiama rinforzi, prima fa andare via tutte le persone, dice entrate in casa. Mira, si aveva il piede di porco, ha aperto la porta, sforzato, ha aperto la porta, è andato dentro. La storia e la morte di Ricky Rasman ricorda quella di Stefano Cucchi, anche se ciascuna ha poi delle sue specificità, o ancora la sua vicenda fa tornare in mente il pestaggio di Stefano Gugliotta, tifoso aggredito da un agente. Eppure, la vicenda di Ricky non ha sollevato lo stesso clamore, ma è rimasta una di quelle storie di mala polizia, per dirla col titolo del saggio di Adriano Chiarelli, confinata nei limiti della cronaca locale. Sarebbe fuori luogo generalizzare su un'intera categoria. Qui si parla di episodi sì isolati, ma che comunque in questi anni si sono riprovati con una certa frequenza. Ecco, in questi 10 anni, in base al tuo lavoro, quanto spesso sono successi dei casi controversi? Poi alcuni sono stati dalle conclusioni drammatiche, altre meno, però ecco, quanto spesso è successo che ci sia stato un caso di mala polizia? In assenza di statistiche vere e proprie, io ne ho riscontrati almeno una quarantina tra morti e sopravvissuti, morti non chiariti ovviamente, includendo quanto avviene in carcere. Che storie sono? Queste cose possono avvenire per strada, possono avvenire nelle camere di sicurezza delle questure o delle caserme dei carabinieri, possono avvenire addirittura in casa, come è successo a Riccardo Rasman, a Marco De Santis, che per fortuna non è morto ma oggi vive su una sedia a rotelle. Può succedere in contesti di ordine pubblico. I contesti sono i più svariati. Anche nelle storie delle vittime c'è un filo conduttore. Quali sono gli elementi in comune tra tutte le vittime? Andiamo a vedere le biografie delle vittime. La maggior parte di loro proviene da contesti comunque di disagio sociale o di emarginazione. I soggetti a rischio, ovvero marginalizzati, sono più esposti, e quindi troviamo il barbone, come è successo alla stazione di Milano, Giuseppe Turrisi, troviamo l'ubriaco, come è successo a Giuseppe Uva, troviamo comunque persone in uno stato di indigenza che magari in quel momento realmente stavano commettendo qualcosa, ma non qualcosa di così destabilizzante. E invece rispetto alle fonti è cambiato qualcosa? Voglio dire, in questi 10 anni, quindi da Carlo Giuliani in poi, hai notato che in qualche modo c'è una disponibilità a far luce effettivamente su quello che succede in questi singoli episodi? Dipende da caso a caso. Diciamo che la posizione generale delle forze dell'ordine, soprattutto proprio a livello di comunicazione, è sempre quella della prudenza. Tu nel ricostruire le singole vicende hai chiaramente ricostruito anche tutti gli iter giudiziari che ci sono stati. Che idea te ne sei fatta? Questi processi come sono andati? Quei processi che si sono chiusi, ci si è trovati più volte di fronte a lacune, prove mancanti oppure negazione spudorata delle evidenze. Quindi ecco, un elemento in comune è la difficoltà, diciamo, di anche ricostruire quello che è successo. Diciamo, in questo senso il caso Aldrovandi rimane sempre il caso scuola, perché è il giudice stesso a dire: noi non abbiamo potuto formulare un capo di imputazione più grave dell'omicidio colposo perché i coinvolti hanno fatto sparire le prove, tant'è che si è sviluppato il cosiddetto Aldrovandi bis, che è un processo proprio intorno all'occultamento delle prove e dei pistaggi, e questo torna in tutti i processi puntualmente. Lo abbiamo detto più volte, per singole vicende che gettano ombre sulla divisa, ogni giorno centinaia di poliziotti, carabinieri e forza dell'ordine in generale, con coraggio e passione, svolgono il proprio mestiere. Ma come vengono vissuti i vari casi di presunta mala polizia tra le divise? Quali le reazioni dei colleghi? Di sicuro i sindacati già in passato si sono rivolti più volte al Ministero dell'Interno, come ci racconta Stefano Paoloni, uno dei segretari nazionali del SAP, il sindacato autonomo. Ogni avvenimento va valutato singolarmente. Noi come sindacato autonomo di polizia già diversi anni fa abbiamo iniziato a chiedere delle garanzie funzionali proprio ai fini di salvaguardare la nostra professione. Questo non significa tutelare atteggiamenti non previsti dalle norme, insomma, che eccedano, anzi in questo caso, nel momento in cui viene accertato che un comportamento, un atteggiamento di un operatore delle forze dell'ordine non risponde ai dettati di legge, devono essere censurati con grande rigore. Il problema è che purtroppo i procedimenti che riguardano le forze dell'ordine spesso assumono un clamore molto importante, pertanto noi chiediamo delle garanzie funzionali, come ad esempio che i procedimenti a carico delle forze dell'ordine siano seguiti dal procuratore capo, che il procedimento possa avere una celerità maggiore rispetto ai tempi ordinari binari della giustizia del nostro paese. Questo però potrebbe essere esteso a molte altre categorie. Avete fatto queste richieste perché vi trovate sempre più spesso di fronte a questi casi. Ecco, l'aumento della frequenza è dovuto ad una maggiore attenzione mediatica oppure perché aumentano, diciamo, casi di questo tipo? Io ritengo che sia soprattutto un meccanismo di difesa. Molte persone che si troverebbero a loro volta indagati, come prima cosa propongono una querela, una denuncia nei confronti delle forze dell'ordine, innanzitutto per cominciare a bloccare il sistema. Ci risulta che solamente il 2% degli operatori delle forze dell'ordine indagate poi vengono condannati, e questo è molto significativo. A ciascuno il suo per questa settimana finisce qui. Vi ricordo come sempre che potete riascoltare questa come tutte le altre puntate della trasmissione dal sito radio24.it nella sezione podcast, oppure potete scaricarla direttamente su iTunes. Ci trovate anche su Facebook, sulla pagina Facebook di Storiacce, nome della nostra vecchia trasmissione, o sull'audioblog Storiacce. Ciao a tutti da Raffaella Calandra.